Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. E poi mi danno del passatista, del nostalgico, ma voglio dire, ma una volta, mi ricordo, 1 ottobre 1975, per tutte e per tutti i remigini ci chiamavano, primo giorno di scuola ufficiale, il 1 ottobre, ultimo giorno di scuola, tra l'altro con grande gioia, perché per me il grande momento era l'ultima campanella, non che bello si ritorna, il 15 giugno, che oltretutto, guarda caso, era anche il mio compleanno, ultimo giorno di scuola, 1 ottobre 15 giugno, insomma era così facile. Adesso ho letto per alcuni e oggi per altri ufficialmente pare sia come immaginavo il 13 settembre, ma inizio didattico venerdì 15 settembre, insomma tutta una confusione. E vabbè, allora, perché era San Remigio, per quello Remigini, sapete la mia passione per la geografia. Però non sono stato molto preciso anche nel dare l'annuncio del Last Minute. Perché? Ma beh, la confusione è arrivata, lieve confusione, dai, su inizio settimana ci sta. Perché oggi alle 10.30 vi è le novità della stagione 2023-2024 per Pop-Up Cinema. Vi sarà la presentazione, poi ovviamente sarà diffuso dal Breakfast Club, dal nostro sito con articolo www.radiocittadino.it. Quindi quest'oggi non è un Last Minute dedicato al cinema, è un impegno che ho in conferenza stampa per quanto riguarda il cinema con la stagione 2023-2024 di Pop-Up. Quest'oggi invece, grazie a Sergio Fanti, ottimo lavoro Sergio, vi è in occasione, siamo anche vicini a questa manifestazione che si estende in tutta la regione, è l'ottava edizione di Entroterre Fest Festival, uno spaccato su Sport Festival, e chi meglio di Sergio Fanti poteva dare approfondimento e interviste con le voci del festival a questa occasione. I valori, la cultura dello spettacolo e dello sport si incontrano in un nuovo format live talk and show ideato e realizzato da Fondazione Entroterre, ovviamente con il patrocinio del Comune di Bologna. Di che si tratta? Beh, ascolteremo a breve la conversazione tenuta dal nostro Sergio con Claudio Borgianni, presidente di Fondazione Entroterre, e non solo, anche per quanto riguarda la parte istituzionale avremo motivo di sentire la signora Roberta Licalzi, assessore allo sport per la nostra città. Di che si tratta? Beh, non ci resta che iniziare ad ascoltare questo dialogo e ne sapremo di più. Ho il piacere oggi di rincontrare Claudio Borgianni, presidente della Fondazione Entroterre, in occasione della presentazione di Sport Festival, una importante e innovativa, nuova serata che avrà luogo il 14 settembre sera al Teatro Comunale Nuovo. Sì, iniziamo esatto con questa serata nuova, con un format che, come dicevo prima in conferenza stampa, un talk e show, si dividerà in due parti, in cui una prima parte in cui si dialogherà con alcuni ospiti del mondo del cinema, del mondo dello sport, del mondo musicale, su tutti quelli che sono i temi di sport femminile, di innovazione, e una seconda parte in cui uno spettacolo teatrale che ci porterà invece nel mondo proprio del dibattito, ovvero dei temi della parità di genere nel mondo dello sport. Infatti questa serata avrà come motore alcuni valori importanti che saranno intorno alla parità di genere sostanzialmente. Certo, perché si parla spesso di sostenibilità, ormai è una parola che tutti utilizziamo, ma sostenibilità all'interno ha un punto centrale che sono i diritti. Eguali diritti, parità di diritti è fondamentale, e oggi purtroppo il mondo dello sport non è per le donne lo stesso parità che per gli uomini. Prima in conferenza hai parlato anche giustamente del concetto di accessibilità ai teatri.

Valori universali dello sport. Grazie Sergio, tra l'altro grande appassionato di sport, il nostro inviato Sergio Fanti, per questi due dialoghi tenuti in anticipazione dell'appuntamento con una chiusura, si può dire ormai, dell'ottava edizione di Entroterre Festival. A breve la pubblicità si ritorna, come vi ho detto vi sarà un'attinenza con lo sport all'interno dei nostri magazine di oggi, lunedì 11 settembre. A tra poco, buon ascolto. Ah, mi raccomando, non cambiate frequenza, per voi un saggio invece dedicato alla gastronomia e alla cucina, però in maniera molto particolare, ok? Vi aspetto.